Letture di Radio 24. Nei prossimi giorni a Londra verrà messo all'asta uno dei bozzetti preparatori di quella che sarebbe stata l'ultima opera di Raffaello, La Trasfigurazione. Un dipinto che aveva conosciuto una genesi piuttosto rocambolesca, come racconta Marco Carminati in un articolo pubblicato oggi sull'inserto culturale del Sole 24 Ore. I potenti committenti del Rinascimento si divertivano ogni tanto a mettere gli artisti in competizione tra loro, andandoli a scegliere spesso tra partiti avversi. Una delle disfide artistiche più celebri del Cinquecento vide contrapporsi Raffaello Sanzio e Sebastiano del Piombo, chiamati a gareggiare dal potentissimo cardinale Giulio de' Medici, che nel 1523 sarebbe diventato papa con il nome di Clemente VII. Giulio de' Medici era il vescovo di Narbonne e nella cattedrale di quella lontana città francese aveva pensato di far giungere due colossali pale d'altare, una illustrante la trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabore, l'altra la resurrezione di Lazzaro. La prima opera la commissionò a Raffaello Sanzio, la seconda a uno dei suoi peggiori nemici, Sebastiano del Piombo, uomo di punta del partito michelangiolesco. E che vincesse il migliore. Sollecitati a dare il meglio, i due artisti si misero al lavoro attorno al 1518-1519 e realizzarono entrambi due capolavori di pittura moderna, ovvero due dipinti completamente accordati al nuovo stile manierista che si stava affermando in quel decennio, soprattutto tra gli artisti più aggiornati. In meno di due anni, Raffaello e Sebastiano dipinsero le loro opere nelle rispettive botteghe di Roma. Il 4 aprile 1520, però, accadde un fatto grave e inatteso. Raffaello Sanzio morì improvvisamente all'età di 37 anni. La Trasfigurazione si trasformò di colpo nell'ultima opera del maestro e divenne il suo impressionante testamento artistico. Se ne accorsero anche i contemporanei, che per questo vollero collocare la pala della Trasfigurazione dietro la testa del pittore steso sul letto di morte. Difficile immaginare un apparato funebre più emozionante. Inutile dire che quella reliquia raffaellesca così importante e imponente non venne più spedita in Francia. Là venne mandata una copia, ma trattenuta a Roma, prima nella chiesa di San Pietro in Montorio e poi nella Pinacoteca Vaticana, dove oggi si conserva. Il lavoro attorno alla composizione della Trasfigurazione fu, da parte di Raffaello, davvero laborioso e complesso. Lo sappiamo perché di questa composizione sopravvivono oggi 17 dei molti disegni che si dovettero predisporre per il progetto. Alcuni sono di mano di Raffaello, altri di mano dei collaboratori di bottega. Comunque i fogli superstiti ci bastano per documentare con chiarezza i vari passi che segnarono la genesi dell'opera. Raffaello procedeva così. Prima realizzava rapidi schizzi dell'intera composizione. Di questa fase iniziale conosciamo, ad esempio, un primo studio di bottega conservato all'Albertina di Vienna, con Cristo in piedi su una collinetta appena rilevata, il Monte Tabor, circondato dai protagonisti della Trasfigurazione, Elia e Mosè e alcuni apostoli. Un secondo studio, d'insieme, conservato al Louvre, è più vicino all'esito finale. Cristo è in volo, in cima al monte, seguito da Mosè ed Elia. In basso si agitano gli apostoli e gli astanti. Trovata la composizione idonea, il maestro tracciava altri studi di figure più dettagliati in piccolo formato. Poi preparava un grande cartone a grandezza naturale dell'insieme della composizione che gli serviva per trasferire il disegno sul dipinto, puntinando, cioè bucherellando i contorni e passando su di essi nero fumo. In questa fase realizzava ancora teste, braccia e mani trasferite dal cartone a ulteriori fogli e li lavorava con la massima accuratezza per studiare nei dettagli pose, luci e modellato. Alcuni dei cartoni preparatori così realizzati sono da considerarsi tra i più bei lavori su carta realizzati dal maestro. Ecco la notizia. Uno di questi cartoni, quanto mai rarissimo, va all'asta il 5 dicembre prossimo da Sotheby's a Londra. Una vendita che, vista la rarità e la strepitosa importanza del lotto, nonché la sua rilevantissima provenienza, non può assolutamente passare inosservata. L'oggetto in questione è il cartone preparatorio per la testa di un giovane apostolo, un gessetto su carta di 375 mm per 278, con impressi i fori della puntinatura. L'opera, proveniente dal castello di Chatsworth, in Inghilterra, è messa in vendita, assieme a due manoscritti miniati fiamminghi del XV secolo, dal duca di Devonshire, che così ha spiegato le ragioni dell'eccezionale incanto. Le collezioni Devonshire sono di straordinaria ricchezza e qualità in molte tipologie. L'asta di queste opere, che la nostra famiglia ha custodito per molto tempo, andrà a beneficio di Chatsworth e delle sue raccolte. La vendita di questo disegno è un fatto del tutto eccezionale. Basti considerare che negli ultimi 50 anni solo due disegni di Raffaello di tale importanza sono apparsi sul mercato ed entrambi hanno registrato aggiudicazioni da record. E anche la testa di un giovane apostolo non sarà da meno. Per il foglio la stima di partenza è di 10-15 milioni di sterline. E quello che avete ascoltato era un articolo di Marco Carminati, pubblicato nell'inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Tra scuole occupate e atti di vandalismo per i quali si riesce sempre a trovare una giustificazione, sta passando l'idea che in Italia studiare non serva a nulla. Ma questo finisce solo per danneggiare i figli dei poveri, commenta Aldo Cazzullo nella sua rubrica sul Magazine 7. Accanto alle inaccettabili aggressioni neofasciste, nelle scuole romane, e non solo, si riaffacciano i fantasmi sessantottini delle occupazioni. Al riguardo, tra i sessantottini, quelli veri, prevalgono due atteggiamenti contrastanti. Nessuno dei due, però, mi pare condivisibile. Da una parte ci sono i commentatori che minimizzano, irridono, condannano. Le comprensibili ansie di una generazione sono degradate a ritualità, oppure considerate un'imperdonabile violazione dell'ordine costituito. Il che, in bocca a chi un tempo annunciava ai borghesi di avere solo pochi mesi di vita e magari poi si è messo al servizio di Berlusconi, è un po' ridicolo. Dall'altra parte ci sono i genitori che si inteneriscono, comprendono, solidarizzano, diffondono via internet, presentandole come prove di impegno sociale e politico, foto di occupanti che riverniciano i muri e fanno la raccolta differenziata. Qui i cartoni della pizza, là le lattine di birra. E non si accorgono, nella difesa oltranza della prole, di diventare un po' patetici. I giovani sono preoccupati per il proprio futuro e ne hanno motivo. La loro richiesta di attenzione è giusta. La denuncia di una lunga stagione di attacchi alla scuola pubblica è sacrosanta. Dialogare con loro è opportuno e necessario. Per i genitori, per i professori, per i politici. Ma occupare le scuole a oltranza, bloccando l'anno scolastico e rendendo difficile o impossibile studiare a chi desidera farlo, è, proprio alla luce della situazione storica in cui ci troviamo, un errore. Sta passando in Italia l'idea che studiare, prepararsi, formarsi non serva a nulla, che basti inserirsi in un circuito di relazioni personali dovute alla nascita, al matrimonio, alle amicizie, alle clientele. Niente di più sbagliato. I giovani italiani hanno grandi chance nel mondo globale, a patto che studino di più, si preparino più a fondo, si formino meglio. Affacciarsi alla vita pubblica, anche con la protesta, è una tappa inevitabile del loro percorso. Occupare a oltranza le scuole è controproducente. Non giova alla causa, allontana le simpatie dell'opinione pubblica e danneggia in particolare i figli delle famiglie meno agiate, che di buoni studi e buona formazione hanno particolarmente bisogno per trovare un lavoro adeguato al loro talento e ai loro meriti. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Aldo Cazzullo, Perché è sbagliato occupare la scuola, dal Magazine 7 del 30 novembre.